modo migliore per cominciare l'anno, se non proprio celebrando l'unione di coppia. Perché siamo una chiesa che è costituita da famiglie e una famiglia sana dipende da un matrimonio sano. Quindi di cosa parlerò io questa mattina? Suggeritemi voi, magari posso cambiare la tematica in base alle preferenze che ci sono in sala. Di cosa vorreste che io parli? Di Gesù, bene, beh, giusto, assolutamente. Non manchiamo l'obiettivo, non manchiamo la centralità. Però parliamo di matrimoni e parliamo ancora di più di matrimoni felici e stabili nel tempo. Di questo voglio parlare approfittando proprio dell'anniversario appena celebrato. Vi siete mai chiesti che cosa rende un matrimonio felice e stabile nel tempo? Qual è l'ingrediente segreto? Vi siete mai posti questa domanda? Spero di sì, spero di sì. Io stamattina mi sono armato di pennarello e di un foglio di carta nero e ho chiesto ad alcune coppie, alcune persone sposate, chi da tanti anni, chi da meno anni, quali fossero le parole che descrivevano, a loro parere, per loro opinione, un matrimonio felice e stabile nel tempo. E vi voglio far vedere che parole ho raccolto questa mattina. Non so se si riescono a leggere, però qualcuno, la prima persona a cui ho chiesto, è andata sul sicuro, ha detto Dio, scrivo Dio. Dio è certamente garanzia di un matrimonio stabile e felice nel tempo. Quanti sono d'accordo con questo? Credo tutti, no? Dio, Dio, ma poi ci sono stati altri che hanno aggiunto perdono. Potremmo parlare a lungo. Il perdono è fondamentale nel matrimonio. Se vuoi un matrimonio che dura, se vuoi un matrimonio che sia felice, non puoi rinunciare al perdono. Non puoi mantenerti rancori, non puoi mantenerti legata al dito cose irrisolte. Devi perdonare. E ogni cristiano è chiamato al perdono, potrei parlare a lungo di questo, però ci sono altre parole interessanti, la lealtà o la fiducia, il rispetto. Qualcuno con due punti esclamativi ha scritto l'allegria. L'allegria mantiene il matrimonio stabile e felice nel tempo. L'allegria, oppure che altro leggiamo? Il sostegno. Molto ha a che fare anche con la comunicazione. Quindi leggiamo di dialogo, di complicità, di ascolto, dialogo e ascolto. Coppie, ascoltatemi, l'ascolto è fondamentale. E in tutte queste cose, se abbiamo difficoltà, e beh, qui subentra il privilegio che abbiamo di essere parte di una famiglia spirituale, la Chiesa. Perché dove noi non arriviamo, e nessuna coppia arriva sempre a vivere in maniera equilibrata tutte queste cose, ma dove noi non arriviamo possiamo chiedere aiuto. Ci siete stamattina? Potete concludere le mie frasi, eh? Quanti avevano pensato che era così che andava conclusa la frase? Quindi ci siete, siete svegli. Se abbiamo bisogno possiamo chiedere aiuto. Aiuto, sì, richiede umiltà, richiede vulnerabilità, ma l'aiuto è la salvezza per il tuo matrimonio. Molto spesso, se noi non riusciamo a dialogare, una terza persona o una seconda coppia può aiutarci. Non sarà facile, non sarà bello, non sarà piacevole vivere queste serate dove magari si bisticcia di fronte a un'altra coppia, ma la Chiesa è quel contesto che Dio ha stabilito non per incontrarci solamente la domenica mattina e cantare quattro canti insieme e alzare le mani e tornarcene a casa. No, la Chiesa è la famiglia spirituale che Dio ha dato a noi, quale supporto per la salute delle nostre vite e per i nostri matrimoni. Non dobbiamo venire la domenica e fingere che tutto va sempre bene. Quanto si è acquisita questa ipocrisia a volte da parte nostra, di venire la domenica cercando di mostrare che tutto va sempre bene. Perché? Perché che cosa devono pensare gli altri di noi? Beh, te lo dico io che cosa penseranno gli altri di te. Che sei fallito, che sei fallita come me. che tutti siamo peccatori, che tutti manchiamo in qualcosa, che i nostri matrimoni non sono perfetti, ma perfezionabili, e un modo per perfezionarli è vivere queste cose attraverso l'aiuto e il supporto gli uni degli altri. Potete dire un amen a questo? Siete d'accordo con me? Io credo che se domandassi ora di alzare la mano ad alcune coppie che sono state aiutate dal supporto della Chiesa, si alzerebbero diverse mani. Io credo che se domandassi ancora di più ad alcune coppie se l'intervento della Chiesa ha salvato il loro matrimonio, si alzerebbero delle mani, e gloria a Dio per questo. Non lo voglio fare perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma so che c'è testimonianza di vittoria e di salvezza per il matrimonio attraverso l'intervento di Dio mediante la Chiesa. Perché a volte pensiamo, no, è Dio che deve risolvere, è Dio che deve ristabilire, è Dio che deve riordinare, è Dio che... Ma come lo fa Dio? Dio ha stabilito la Chiesa. Ed è per questo che quando leggiamo la parola di Dio, noi leggiamo di parole quali edificatevi gli uni gli altri, correggetevi gli uni gli altri, fate attenzione gli uni agli altri. Quindi la Chiesa non è un contesto di giudizio, non è un contesto nel quale puntiamo il dito l'uno all'altro o un contesto nel quale parliamo e facciamo gossip della difficoltà matrimoniale di quella coppia o di quell'altra coppia. Se ci dovesse essere questo, è da condannare, non lo fare. Se ti ritrovi in contesti dove si sparla, si fa gossip, interrompi la conversazione. Però quando abbiamo modo di confrontarci, anche su coppie che hanno difficoltà, notizie di coppie che sono al capolinea del loro matrimonio, noi possiamo allearci per aiutare le coppie e farle funzionare bene. Farle funzionare in tutti questi elementi e in molti altri. Stamattina è andata così. Ho dato questo pennarello, hanno cominciato a scrivere le parole e poi ovviamente più si andava avanti nello scrivere le parole, perché chiedevo parole sempre nuove, più c'era difficoltà a trovare una parola che potesse descrivere la salute di un matrimonio, la stabilità di un matrimonio. Christian è stato uno degli ultimi, ha avuto molta difficoltà. Le hanno già scelte tutte, io ne ho pensate a quattro, ma sono già scritte. Però all'ultimo ero proprio disperato, perché mancava una parola chiave, la parola per la quale io mi sono preparato, la parola di cui predicherò stamattina, e questa parola non usciva. E non potevo suggerirla io. Allora ero disperato, veramente siamo arrivati alle 10:27, l'ho visto sul cellulare, e finalmente questa parola è uscita. Quale parola pensate che sia stata detta fra le ultime? Rinuncia? Preghiera! Federica, sei preparata? Preghiera! Paradossalmente la preghiera è una delle ultime cose che è venuta fuori. Io voglio invece predicare, parlare della preghiera, perché la preghiera è l'elemento fondamentale per far funzionare il matrimonio e ogni altra cosa nella nostra vita. Tutto funziona in virtù della preghiera. E lo so che state pensando alla preghiera che è quella disperata di chi ricorre a Dio quale ultima spiaggia per andare da Lui e dire: Signore, aiutami, sono disperato, il mio matrimonio va a pezzi. No, io voglio parlarvi di un altro tipo di preghiera, ma comunque di preghiera. Anche la preghiera disperata è un'ancora di salvezza per il tuo matrimonio. Se ancora non stai pregando per il tuo matrimonio, sappi che sei già in una situazione di allarme. Perché la tua salute spirituale e la salute spirituale, l'unità di coppia nel matrimonio, dipendono dal coinvolgimento di Dio. E come coinvolgiamo Dio? Non l'ho stabilito io come coinvolgiamo Dio. E non lo puoi stabilire tu quanto coinvolgi Dio. C'è gente che pensa di coinvolgere Dio perché esclama a Lui ogni tanto e dice: oh mio Dio, oh Signore Gesù. Non lo stai coinvolgendo nel momento in cui hai delle esclamazioni. Il coinvolgimento che Dio ha stabilito Il mezzo attraverso il quale, per meglio dire, noi coinvolgiamo Dio, secondo quello che Lui ha stabilito, è la preghiera. Lui vuole che noi preghiamo. Addirittura Lui dice, pregate in ogni tempo, con ogni tipo di preghiera. E quindi che cosa può dare garanzia al nostro matrimonio di essere duraturo e di essere felice? La preghiera, ossia il coinvolgimento di Dio nelle nostre vite attraverso un dialogo anche con Lui, perché non c'è relazione senza dialogo. Non c'è relazione senza comunicazione. Se tu non hai comunicazione con Dio, ti stai illudendo di avere una relazione con Lui, ma non ce l'hai. Sarò spietato, però lo faccio per il tuo bene. Perché la salvezza tua e mia e dei nostri matrimoni dipende dalla preghiera. Però io vi ho detto che non voglio parlare della preghiera che tutti noi conosciamo, la preghiera quella che, a cui ricorriamo quando le cose vanno male, perché quella è la preghiera che solitamente tutti conoscono, tutti fanno. Io voglio parlare di un altro tipo di preghiera di cui si parla molto poco. Anche perché i benefici di questo tipo di preghiera non sempre si riscontrano. Perché sto parlando della preghiera preventiva. Mi seguite? Viviamo in un tempo dove la prevenzione è molto vissuta. Quanti si sono vaccinati per l'influenza di quest'anno? Potete alzare la mano senza giudizio. Benissimo. Mi dispiace per voi perché poi c'è stato a quanto pare un'altra variante che quindi non ha coperto completamente. Però il vaccino... Quanti si sono vaccinati dal Covid? Tutti, per obbligo, non avevamo scelta. Perché? Perché c'è un vaccino? Per prevenzione, per la nostra salute. Perché mettiamo la cintura di sicurezza quando entriamo in macchina? Qualcuno vorrebbe dire perché sennò ci fanno la multa. Quindi la prevenzione dalla multa. Ed è vero, è anche una prevenzione quella. E prevenire è meglio che curare, e prevenire dalla multa prevede anche il metterci la cintura. Oppure, dal punto di vista economico, che prevenzione facciamo? Noi trentenni, noi quarantenni, a noi ci viene detto che non possiamo avere sicurezza in quelli che sono in quella che è la pensione statale, allora dobbiamo avere dei fondi pensionistici. Allora il mio TFR va in un fondo che contribuisce a quella che sarà un giorno la mia pensione. Perché? Perché dobbiamo prevenire la situazione di povertà che ci potrebbe essere nella pensione. Oppure pensate ai DPI, si chiamano così, dispositivi preventivi, si chiamano così, di protezione individuale. Il geometra Raffaele ci aiuta, è proprio nel settore. DPI, dispositivi di prevenzione individuale. Questi sono dei dispositivi, quale guanti, caschi, per prevenire gli infortuni. Io mi chiedo, questa è la domanda che mi sono fatto, il mio cruccio di questa settimana. Quanta prevenzione si fa per un matrimonio felice? Anche come Chiesa. Gli interventi che noi facciamo come Chiesa, il più delle volte, sono degli interventi a cura, a guarigione, a cercare di salvare il salvabile. Quando invece Dio ci insegna attraverso la sua parola ad essere delle persone che prevedono e che si attivano preventivamente. Prevenire significa arrivare prima. E sapete cosa fa la preghiera? La preghiera può arrivare prima. Vi leggo prima un proverbio a dimostrazione del fatto che Dio vuole che noi siamo persone attente e che ci preserviamo dal male. In Proverbi, capitolo 22, versetto 3, c'è scritto che l'accorto vede il male e si nasconde. L'accorto vede il male e prende provvedimenti, si protegge, lo vede, non lo vive ancora, quando lo vede agisce. Vede il male e si nasconde, ma i semplici vanno avanti e ne subiscono il danno. I semplici, le persone ingenue, gli irresponsabili vanno avanti e ne subiscono però il male. Io voglio predicare questa mattina della preghiera preventiva perché Gesù che ce le insegna, Padre nostro, tutti la conosciamo. A un certo punto Gesù ci insegna a pregare così. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non ci esporre alla tentazione è una preghiera preventiva. Prima ancora che la tentazione ci possa essere, prima ancora che la caduta avvenga, io prego a te che tu mi possa preservare e custodire. C'è un salmo bellissimo che dice: il Signore per noi un rifugio e una forza. Lui è un rifugio. Lui è un rifugio e tutti i rifugi in Dio, non solo nel momento in cui il danno è accaduto, ma preventivamente per evitare che il danno ti colpisca. Non ci esporre alla tentazione. Un'altra preghiera che conoscete molto bene è la preghiera che Gesù fa nel Getsemani e invita i suoi discepoli a fare questa preghiera preventiva e dice: vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. Pregate e vegliate, pregate e vegliate è un appello, è un'indicazione, è un comando che noi troviamo nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. Tantissime volte il cristiano deve vegliare, cioè deve essere attento, deve essere una sentinella, e un modo per farlo è proprio attraverso la preghiera. Ogni male che tu pensi che si potrebbe affacciare nel tuo futuro, portalo in preghiera a Dio. Questo è l'antidoto anche ad ogni forma di ansia e paura per il tuo futuro. Io sto già pregando. Quando vengono pensieri nel mio cuore che riguardano mia figlia, io già faccio preghiere preventive. Io sto già pregando per il suo futuro marito. Pensate che sia esagerato, eccesso di zelo? Io penso di no. Perché io credo che oggi sto godendo di una vita che è benedetta anche dal numero di preghiere che i miei genitori hanno fatto per me, preventive. Smettila di pregare solo quando il danno è già compiuto. Smettila di ricorrere alla preghiera quale ultima spiaggia. Smettila di pregare come fanno molti, la preghiera disperata: Signore, tutto rotto e tutto guasto, aiutami ora a ripararlo. Dio lo farà. Non voglio escludere il valore di questa preghiera, ma ti voglio invitare ad essere un cristiano maturo che fa utilizzo della preghiera preventiva. Sapete che Gesù ha fatto una preghiera preventiva per i suoi discepoli? Preghiera sacerdotale. Tutte preghiere che conosciamo molto bene. Giovanni 17, versetto 15. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Che tu li custodisca dal maligno. E noi sappiamo che tutti e 11 i discepoli che erano rimasti sono stati custoditi dal maligno. Non sono caduti, non hanno rinnegato, anzi, sono rimasti fedeli fino alla morte, fino al martirio. Perché? Perché tra le altre cose e tra le altre scelte che loro possono aver fatto, c'è stata la preghiera di Gesù preventiva. E allora io voglio invitare tutti i genitori a cominciare a fare preghiere preventive per i vostri figli. Voglio invitare tutte le persone che ancora non sono sposate a fare preghiere preventive per il vostro matrimonio. Questo mio appello è un appello per vivere un anno benedetto, perché la benedizione di quest'anno non starà solo nel ricorrere a Dio quando ci sarà la tempesta e quando le situazioni difficili si abbatteranno sulla nostra casa, ma preventivamente pregando la protezione di un Dio che garantisce protezione per i suoi figli. Alleluia. Amen. Amen. Io voglio pregare per i miei figli. Comincia a pregare per i tuoi figli. Prega per i tuoi nipoti. Prega per i matrimoni preventivamente. Voglio essere molto pratico a conclusione del mio messaggio. Prima di tutto voglio dirti, entra a far parte di un gruppo in casa. Questa settimana cominciano i gruppi casa, sarà la prima riunione dell'anno. Molti di noi, più della metà della nostra chiesa, fa parte di un gruppo in casa. Entra a far parte di un gruppo in casa, perché il gruppo in casa, fra altri obiettivi, ha proprio l'obiettivo di essere un contesto di preghiera. dove ci si supporta reciprocamente. Posso dare un'indicazione a tutti i capigruppo che ci sono questa mattina? In questa settimana, nella vostra riunione, pregate. E non pregate più solo per tutti i bisogni e l'elenco delle cose che sono attualmente motivo e richiesta di preghiera. Pregate per un anno che sia da Lui protetto e benedetto. Dio lo fa. Se Lui ci dà indicazione di pregare, di non essere esposti dalla tentazione, un motivo ci sarà. E il motivo è questo, perché Lui è un Padre buono che vuole essere coinvolto e non vuole essere coinvolto solo nel momento del bisogno. Lui non è il genio della lampada. Lui non è il santone a cui ricorrere per ottenere quello che vogliamo. Quando abbiamo malattia, ricorrere al suo nome per essere guariti. Quando siamo in difficoltà economiche, ricorrere al suo nome affinché lui risolva la nostra situazione economica. No, lui non vuole essere il genio della lampada. Lui non è il genio della lampada. E lui non è al tuo servizio quando tu ne hai bisogno. Lui vuole essere un padre che vuole essere in stretta relazione con te, quotidiana, costante, per ogni cosa che vivi e per ogni paura che hai. E vuole che ti affidi a Lui e Lui interverrà. Fai preghiere preventive. Volete qualche esempio di preghiera preventiva per il matrimonio? Non vale solo per le persone sposate, anzi forse questo messaggio è molto più per le persone che sono ancora single. Sei single e hai meno di 18 anni? Ti invito io a fare una preghiera preventiva. A non cadere nella tentazione di metterti insieme a qualcuno prima della maggiore età. Stai esagerando, pastore? Io credo che molti dolori nelle relazioni ci sono quando si affrettano i tempi. E io amo questa frase che dice: la cosa giusta nel momento sbagliato diventa la cosa sbagliata. Hai meno di 18 anni e sei single? Beh, questa è la stagione per la quale attendere, pregare, crescere in Cristo e non essere tentato dalla pressione della società che ti circonda. Perché io mi sono messo insieme a diverse ragazze prima della mia maggiore età e molto spesso era una scelta per adeguarmi a quello che era la condizione dei miei amici e dei miei coetanei. Non c'era la maturità di vivere una relazione sana, non c'era un mettersi insieme in vista del matrimonio, era un mettersi insieme per colmare un vuoto, per confrontarsi con qualcun altro e poter dire anch'io ho una ragazza. E allora il mio suggerimento, non vuole essere un'accusa, tra l'altro abbiamo festeggiato appena l'anniversario di qualcuno che si è sposato a 15 anni, non è una regola generale, non la troviamo nella Bibbia, ma può essere una saggia indicazione per i nostri figli, perché lo vediamo quanto dolore c'è nelle separazioni di coppie, di bambini, di ragazzi, di adolescenti che si mettono insieme prima dell'età matura. Sei single e hai superato i 18 anni. Beh, la preghiera preventiva è questa. Signore, permettimi di non cadere in una relazione che è basata solo dall'emotività, solo dal sentimento, dall'emozione ingestibile. Oh, questa è l'età dove gli ormoni, dove il cuore batte. No, questo vale anche per persone molto più adulte, che vanno ancora alla ricerca di quella sensazione. Questo non è amore. Questo è andare incontro e ricercare costantemente di appagare la propria carne. Allora prega di non entrare in tentazione e di non cadere nelle braccia della prima persona che è affascinante, che è carismatica. Perché l'amore è altro. Sei single e sei alla ricerca, beh, prega che il Signore ti possa dare la giusta persona. E sai qual è la persona giusta? La persona che ama Dio più di te. Sapete qual è la cosa che più mi ha fatto innamorare di mia moglie? Quanto lei amasse Dio. Quanto lei fosse una ragazza dignitosa nel modo in cui si comportava, in come si vestiva e in come fedelmente era in preghiera e in ascolto dello Spirito Santo. Oh, io auguro che tu possa cercare una persona così che ama Dio più di quanto possa amare te, più di quanto ti possa far battere il cuore. E vanno bene queste emozioni, i sentimenti, la passione, l'attrazione fisica, sono tutte cose normali, naturali, ma io sto parlando concretamente di avere matrimoni felici. Non belle esperienze di infatuazione. Perché ci sono tanti che vanno ancora incontro a questo. Si sono divorziati e cercano ancora questo. Perché devono colmare un vuoto, ma l'amore è altro. L'amore è basato sull'intreccio della coppia con Dio. E allora prega preventivamente affinché tu non possa cadere nel tranello del maligno di farti mettere insieme a qualcuno che sia sbagliato. Sai una cosa? Visto che sono molto sincero, bello iniziare l'anno con sincerità, no? Belle schiette, sinceri, sinceri il primo dell'anno, sinceri tutto l'anno. C'è una condizione ben peggiore dell'essere single. Anzi, biblicamente parlando, la condizione da single è una condizione elevata e meravigliosa, perché ti stringe a Dio e ti permette di fare cose con Lui e per Lui che altrimenti non potresti fare. La società condanna quella condizione e i risultati li vediamo. Quindi c'è una condizione ben peggiore di essere single, ed è quella di sposarsi con una persona che diventerà per te un cruccio e una difficoltà perenne. Non fare questo errore. Sei single, hai più di 18 anni, sei alla ricerca, fai preghiere preventive affinché il ragazzo che ti scegli non è il bel ragazzo a cui tutti piace, ma che sia un uomo o una donna secondo il cuore di Dio e che sia una garanzia per un tuo matrimonio felice. Sei fidanzato. Anche per te c'è una preghiera preventiva. Che il Signore ti possa tutelare e proteggere da quello che è il compromesso che si può vivere nel fidanzamento. Il sesso prima del matrimonio è un peccato. E sapete qual è il danno maggiore di questo tipo di peccato? È che tu ti stai già alleando con il tuo fidanzato, con la tua fidanzata, a peccare. Siete già caduti in un compromesso che non dà delle fondamenta stabili per il tuo matrimonio, perché il matrimonio si fonda bene quando l'alleanza della coppia è a favore di Dio e della santità e si lotta insieme affinché si rimane stabili in Lui e si osservano i Suoi comandamenti e si vive la santità. Nel momento in cui nel fidanzamento si entra nel compromesso del peccato di fornicazione o di altri peccati e ci si accompagna in questo, ci si tutela in questo, ci si giustifica in questo, non si sta facendo altro che mancare di mettere un fondamento valido per il matrimonio futuro. E allora se sei fidanzato, se hai conosciuto qualcuno, prega preventivamente, Signore, che io con questo ragazzo, con questa ragazza, possa fare le cose serie, che non è baciare, sperimentare, carnalità, attrazione fisica, ma possa fare le cose serie che stabiliscono un presupposto valido per un matrimonio felice, perché io voglio una vita felice, non una stagione emotivamente e carnalmente libera e straordinaria con il retrogusto di morte, perché il salario del peccato è la morte. Ho guadagnato il silenzio di questa chiesa stamattina. Giungo alla conclusione. Preghiere preventive sono preghiere che riguardano lo status single, chi sta cercando marito, chi sta vivendo il fidanzamento, chi è da poco sposato e chi vive il matrimonio. Tutti noi possiamo fare preghiere preventive. Il motivo per cui ne parlo è perché credo che come Chiesa dobbiamo allearci alla prevenzione. Mi piace. Io voglio che la nostra Chiesa sia una chiesa che è tanto abile a curare e a offrire l'opportunità di guarigione, ma che è esperta nel portare e offrire un luogo di rifugio ai ragazzi, ai giovani, ai single, ai fidanzati e a chi è sposato. Perché Dio è per noi un rifugio e una forza. Io prego che la nostra chiesa sia una chiesa che sa fare preghiere preventive, perché la preghiera preventiva, ascoltate, è l'atto di fiducia di chi preferisce essere custodito piuttosto che curato. La preghiera preventiva è l'atto di fiducia di chi preferisce essere guidato piuttosto che essere recuperato. La preghiera preventiva è l'atto di fiducia di chi preferisce essere preservato piuttosto che essere riparato. Io prego che la nostra Chiesa sia un luogo che possa offrire tutto questo. E allora, se questo messaggio era per te, comincia a fare questo tipo di preghiera. Se pensi che è per qualcun altro, comincia a pregare per qualcun altro. E alleiamoci come Chiesa affinché nel nostro contesto ci siano dei matrimoni felici, non solo perché siamo abili nel ripararli con l'aiuto del Signore, ma perché Lui ci dà la grazia di preservarli dal male e dalla tentazione del nemico. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Voglio pregare, perché alla luce di questo messaggio non possiamo fare a meno di vivere la preghiera, e vorrei pregare prima di tutto per chi non ha mai effettivamente vissuto Cristo quale rifugio. Non ti sei arreso a Lui per ricevere da Lui protezione per il tuo presente e per il tuo futuro. Forse sei ricorso a Cristo per l'aiuto disperato che avevi nelle situazioni e nelle stagioni difficili, quando c'era tempesta, quando ti sentivi debole, quando c'erano cose da risolvere. Ma Dio non vuole essere il riparatore solamente della tua vita, Lui vuole essere il custode. Lui non vuole solo cercare di guarire ciò che è malato, ma vuole darti la prevenzione affinché tu non sia nemmeno intaccato minimamente da ciò che è malattia, da ciò che è morte nella tua vita. E allora vorrei pregare per tutti coloro che questa mattina dicono: sì, io vorrei il rifugio che Cristo ha da offrirmi. Io ho bisogno di rifugio. Io ho paura del mio domani, io ho ansie per il mio domani, io non so che cosa vivrò nel domani, ma non prospetto nulla di buono e ho paura. Beh, oggi puoi rifugiarti in Cristo attraverso la preghiera. E Lui è presente qui oggi, ma sarà presente anche nel tuo domani, se tu glielo permetti. E allora, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, vorrei chiedere a chiunque ha bisogno di questo tipo di preghiera e vuole fare di Cristo Gesù il proprio rifugio, il proprio riparo, ti chiedo di alzare la tua mano. Dove ti trovi? Voglio pregare.